Effetto Mondo. One of the hardest parts of this is all those pinky promises and all those little girls who are going to have to wait 4 more years. That's going to be hard. Questa è la voce di, sì, di Elizabeth Warren. E questa che sentite invece è la voce di Giulia Crivelli. Partiamo con le primarie democratiche. Sì, le abbiamo seguite molto. Ormai appunto dei 10 piccoli indiani iniziali erano 9. In realtà ne sono rimasti 2, Joe Biden e Bernie Sanders, perché ieri Elizabeth Warren, avete sentito la sua voce che diceva, questa è la domanda di una giornalista, ma non le dispiace per tutte forse quelle donne, anche quelle ragazze giovani, lei è un ex insegnante universitaria, che avevano creduto in lei anche in quanto candidata donna, prima candidata donna alla vicepresidenza e magari anzi alla presidenza in teoria, sì. E lei dice sì, mi dispiace moltissimo, ha la voce molto commossa e dice vabbè, aspetteremo altri 4 anni, quindi sta già dicendo che si ripresenterà. Poi in realtà non ha ancora fatto il suo endorsement, ha detto che avrebbe chiesto un po' di tempo, e il New York Times in prima pagina ha questo commento, quindi alla fine sarà un two-man race, una gara fatta da 2 uomini, belle donne forse non sono poi così tanto sorprese. Tra l'altro la foto scelta è molto bella, il colore preferito di Elizabeth Warren è il viola, lo sappiamo perché spesso aveva delle giacche viola, e scopriamo che la sua casa nel Massachusetts in realtà anche le scale sono proprio viola. Ieri lei aveva una giacca viola, si è presentata col marito dietro per una volta, e voglio dire, per una volta un uomo dietro a una donna, e poi il loro bellissimo Golden Retriever che si è comportato stupendamente, ha ascoltato la sua padrona che parlava con i giornalisti. Ricordiamo che questa corsa democratica continuerà fino a quest'estate? Sì, naturalmente coronavirus permettendo, certo. Perché può darsi che questi giganteschi rallies e riunioni che loro fanno, il presidente Donald Trump, lo sentiremo tra un attimo, ha partecipato a uno di questi in un luogo chiuso proprio a meno di 24 ore fa, quindi può darsi che alcuni siano vietati, però di fatto insomma la scelta ufficiale tra Biden e Sanders, con il conteggio finale di tutti i delegati democratici che sceglieranno appunto tra questi due, si dovrebbe avere circa a giugno, e dopodiché novembre, come sappiamo, le elezioni. Ok, vabbè, seguiremo ovviamente tutte le vicende che riguardano le primarie democratiche negli Stati Uniti. Come sempre gli Stati Uniti sono un elemento importante nelle dinamiche mondiali, ed è per questo motivo che vanno seguite anche queste notizie riguardo le primarie. Insomma. Poi sai, noi adesso, io non lo ripeterò mai abbastanza, ci stiamo rendendo conto di quanto sia importante avere un sistema di sanità pubblico e anche abbastanza flessibile e capace di ritararsi su una situazione di emergenza che per definizione non è quella del day by day, e ci stiamo anche accorgendo che negli Stati Uniti questo non succede. C'era un sondaggio ieri di Financial Times fatto con la Peterson Foundation, Peter Peterson è il cofondatore del fondo Blackstone, per darvi un'idea, che è il più grande fondo di private equity al mondo, e diceva la preoccupazione principale degli americani, questo è stato fatto prima dell'emergenza coronavirus, è la spesa per curarsi. Quindi oggi il Wall Street Journal naturalmente dà conto ieri della brutta performance degli indici di borsa americani, ma anche di come si sta evolvendo la situazione dei famosi tamponi, che sono autorizzati e certificati dal Center for Disease Control, ma non è ancora chiaro se saranno resi in qualche modo gratuiti, anche se poi resta il costo dell'infermiere che te lo deve fare, perché qui diamo tutto per scontato, ma negli Stati Uniti non è così, oppure se ci sarà un allargamento della platea. E se vuoi, sono giorni che gli Stati Uniti annunciano numeri pazzesche, dicono questa settimana pronti 1 milione di tamponi, 400.000, però non se ne stanno facendo tantissimi. No, il problema è che il CDC li vuole mettere a disposizione questi tamponi. I problemi in realtà sono 2: i laboratori sparsi per gli Stati Uniti che dovrebbero certificare la lettura, diciamo così, del tampone, e come dicevo il fatto che il tampone non è una cosa che ti fai da solo, o come nella tecnologicissima Corea del Sud te lo fanno ai semafori con un aggeggio elettronico. Negli Stati Uniti bisogna andare in un ambulatorio e quindi pagare il medico o l'infermiere. Quindi credo che nei prossimi giorni vedremo, insomma, questa coronavirus credo che scoppierà un po' in mano sia a Trump che eventualmente ai candidati democratici. Se vuoi sentiamo però Trump, perché ieri l'hanno ripreso poi tutti, ha detto che non è molto preoccupato, ma in realtà ho preso Trump, sì, perché abbiamo Lindsey Graham, esatto, perché ho sentito che Trump ne ha parlato anche stamattina Simone a 24 mattino. Lindsey Graham è un senatore del South Carolina fedelissimo di Trump, ha sempre detto che tutta la questione dell'impeachment era sulla linea del presidente Trump, cioè un grande tentativo fraudolento dei democratici di ribaltare il voto popolare. Ieri però ha detto no, però di fronte a quello che ci dicono gli scienziati cerchiamo di mantenere la calma, un po' quello che ha detto il presidente nostro, sentiamolo. I listen to the scientists when it comes to the numbers, and I would encourage the president, you know, if he's going to report things, to make sure that the science is behind what he's saying. Dice proprio, e vorrei consigliare al presidente che quando dice delle cose in pubblico, che dietro quello che dice ci siano dei dati scientifici, perché sapete che ieri Donald Trump ha detto che lui ha parlato con un po' di persone, non è così grave. Pazzesco. Passiamo a un altro paese dove parlano sempre in inglese, ma non gli Stati Uniti, Gran Bretagna, UK. Sì, lì c'è la grande arma di distrazione di massa, che è naturalmente la famiglia reale. Ieri i Mexiteers, cioè Meghan e Harry, sono tornati a Londra per partecipare a un grande evento di beneficenza, sono stati paparazzati in tutti i modi possibili e immaginabili. E poi c'è anche un altro fatto di cronaca che sta un po' distraendo, mentre si parla di chiusura delle scuole, chiusura del Parlamento e altre misure straordinarie, e anche della crisi dello sport da coronavirus, perché questo principe esponente dei reali del Dubai, che sapete sono tanti perché ogni Emir, è stato in effetti condannato per aver di fatto rapito una delle sue figlie per riportarla a Dubai. Questa è una cosa che ha fatto molto effetto, perché questo signore nel Regno Unito aveva molte attività anche di filantropia, tra l'altro possiede molti cavalli, quindi partecipava alle gare di cavalli, e il Daily Telegraph ha pubblicato una foto in cui la regina stessa un po' di tempo fa gli consegnava un trofeo, quindi insomma si sta facendo molto scandalo questa cosa. Certo. Dunque, a proposito di grandi personaggi leader, in Germania si parla molto, giustamente, anche dell'accordo tra Putin ed Erdogan. Sì, diciamo che la Germania, come insomma abbiamo spiegato questa settimana, è il paese che ha seguito più da vicino la crisi tra Turchia e Grecia, e naturalmente quello che c'è dietro, cioè la guerra in Siria, tanto che la Welt e tantissimi altri quotidiani oggi non parlano di coronavirus, anche se pure in Germania l'emergenza c'è, e anche lì si va verso milioni di bambini a casa, perché le scuole in alcune zone sono già chiuse, in altre chiuderanno, e la foto principale però è questa foto di Erdogan che guarda un po', insomma, non proprio in modo così amichevole Putin, però 6 ore di colloquio evidentemente sono servite, quindi la Welt annuncia questa Waffenruhe, cioè la tregua, il silenzio delle armi, letteralmente. Abbiamo un ultimo minuto, lo dedichiamo alla Francia? Sì, in Francia ci sono due notizie interessanti. Sì, da una parte questo tema delle elezioni municipali francesi, naturalmente gli occhi saranno puntati su quella per il sindaco di Parigi, ma ce ne sono anche tantissime altre, e spiega Le Figaro, uno dei temi di campagna elettorale sarà la sicurezza, perché mentre appunto, soprattutto poi la Francia per semplificare veramente nella sua capitale la Francia è Parigi, ecco, potremmo dire, poi in realtà però politici e amministratori locali, la Francia non è uno stato federale, quindi hanno delle responsabilità, si sono dimenticati delle città di provincia, dove sono saliti tantissimo i tassi di piccoli e grandi crimini, e questo sarà un tema, perché naturalmente inevitabilmente si lega poi anche all'emergenza immigrazione che anche in Francia c'è. Sicuramente. Gli ultimi secondi li dedichiamo ad Uber, perché torna a far notizia, perché c'è stata una sentenza importante. Le Monde, questa gig economy, come la chiamiamo, l'economia dei lavoretti, ecco, Uber, naturalmente sapete, chi lavora per Uber non ha certo un contratto di lavoro normale, dipendente, e però in Francia una persona che lavorava per Uber ha fatto ricorso, e la corte d'appello gli ha riconosciuto il diritto ad avere un regolare contratto in quanto autista di Uber, anche se nelle modalità che sappiamo sappiamo che non sono quelle tradizionali. Insomma, è una, in Francia viene considerato un passo importante, sì, sì, per i diritti di questo tipo di lavoratori. 13:56 minuti, Giulia, grazie. A te, Enrico. Ci sentiamo tra poco.